niente e considera il tuo culo non riflette, ma considera, io ti prego di donare il tuo organo genitale. Geloso, famoso, gustoso, vanitoso. Cazzo e proprio cazzo di te.